la mia grazia ti basta. Te, pericolosissimo, non comprendere il valore di una parola, come è altrettanto grave usarla in modo improprio. Se poi questa parola è ricorrente nei dialoghi e negli scritti, il male che ne esce è devastante. E il caso della parola grazia, che l'Apostolo Paolo usa per raccontare una sua esperienza. Stava soffrendo a causa di una infermità e, come ogni persona normale e credente, chiese a Dio di togliere quel tipo di sofferenza, ma inaspettatamente ricevette da Dio una risposta tale da lasciare disarmata ogni invocazione. La mia grazia ti basta. Già, il ti basta. È una risposta che tura la bocca di chiunque. È come dire, è inutile che tu mi invochi, hai tutto quello che ti occorre. Hai il sufficiente. Dunque, l'Apostolo Paolo, nella sofferenza, aveva tutto ciò che gli era necessario. E se aveva tutto il necessario nella sofferenza, quanto più lo aveva in salute o in una situazione normale. Cosa aveva in verità Paolo da doverlo rendere appagato? Aveva forse la buona fama di un papa cattolico? Tutt'altro, più volte ha dovuto difendere il suo apostolato. Aveva forse le ricchezze che possiede il Vaticano, cioè il governo temporale della religione cattolica romana? Niente affatto. Spesso, come egli ebbe a dire, era vestito con il minimo indispensabile e senza denaro. Viveva forse in enormi e splendidi edifici, come chi professa di essere il diretto successore di Cristo? Assolutamente no, perché non aveva nessuna fissa dimora. Aveva forse vissuto splendidamente senza tante difficoltà? Tutt'altro perché era, come gli stesso disse, tribolato in ogni maniera? Era stato ridotto all'estremo, spesse volte era perplesso, perseguitato, abbandonato, atterrato, sempre esposto alla morte per amore di Cristo, 2 Corinzi 4.8.1.1. Era forse Paolo un mistico che aveva trovato nel suo isolamento spirituale una sazietà di animo e di fisico al punto di eclissarsi dalla società e non sentire più nessuna necessità terrena? Certamente no, perché con il suo apostolato ha fondato tante comunità cristiane e nulla di più pratico e attuale si può trovare nelle sue numerose lettere mandate a così tanti credenti. Che cosa aveva ricevuto allora Paolo da Dio? Perché ciò gli bastasse. Aveva ricevuto la grazia. La grazia! Si fa presto a pronunciare questa parola. Ma gli effetti pratici cos è, poi, questa grazia che deve riuscire ad appagare una persona anche nel momento più buio della vita? Se fosse una parola concreta come pane, vino, acqua o quant'altro, non necessiteremmo di tante parole per spiegarne il senso. Ma poiché questo termine è polisemico, cioè ha più significati e appartiene a ciò che è incorporeo, si è costretti a dover dare una spiegazione risultante soddisfacente e chiara. Inoltre, bisogna dirlo, la chiarezza in merito a questo vocabolo non è utile tanto per soddisfare la nostra curiosità o per spiegarla agli altri, ma è necessaria per me e per te, che dobbiamo fare della grazia il nostro tutto, sia nel bene sia nel male. È come dire che ho un dissesto finanziario e la grazia mi basta, anche in mezzo a dei debiti. Mi muore un figlio e la grazia mi deve bastare, anche in mezzo a tempeste sentimentali. Ho un tumore e la grazia mi è sufficiente, anche se vedo la morte. Ogni giorno sempre più vicina, soffrendo dolori inesprimibili, mi trovo ad essere ingiustamente incolpato e devo vivere in mezzo al disprezzo e disonore. Per un incidente rimango fisicamente menomato e la grazia è quella che mi deve bastare anche nella mia nuova situazione. Oppure, ho per coniuge uno fra quelli pessimi, ma la grazia di Dio deve essere facile da dirsi, ma quando certe verità si trasformano, in realtà spesso le cose si valutano diversamente. Ho presente quel predicatore che aveva una bella moglie e predicava l'indissolubilità del matrimonio, quando però questa lo ha tradito ed è fuggita con un altro, le sue predicazioni in merito al matrimonio cominciarono ad avere un'altra colorazione. La coerenza a quello che si predica è una virtù rara, che si vede proprio nella prova e non quando il vento della vita è favorevole. Notavo a proposito una nota della traduttrice della Bibbia ebraica. Interlineare, ebraico, greco, latino, italiano, cristiana doveri, nel libro del Deuteronomio edito San Paolo, la seguente osservazione: un termine, anche quando significa fatto e evento, viene tradotto con la parola, ricordando che per Yahweh nella Bibbia parola e fatto coincidono, pag. 15. Ecco la potenza della grazia di Dio, mettere in pratica la conoscenza che si acquisisce leggendo la parola di Dio. Un concetto astratto che si trasforma in azione, una verità che si vede vissuta. Un'azione che forma e trasforma l'uomo a immagine di Gesù Cristo, la parola fatta carne. Cos è allora questa grazia così potente da rivoluzionare la vita degli uomini? Il dizionario inserito nel mio computer mi dà 7 opzioni per il termine grazia, e una di queste è il fascino derivante da caratteristiche di armonia, delicatezza, bellezza e eleganza. Ma per la mia ricerca mi avvalgo della seguente opzione. Nella teologia cattolica, aiuto soprannaturale e gratuito che Dio concede alla creatura per guidarla nella salvezza, che si consegue anche attraverso i meriti delle opere. Dunque, per il cattolicesimo la grazia è un aiuto gratuito che Dio concede agli uomini per conseguire la salvezza che si ottiene anche per mezzo delle opere. Questo è il pensiero generale della popolazione italiana. E, giusto o sbagliato, dato che la risposta può essere condizionata dalla nostra cultura, ancora una volta per comprendere il significato di una parola è necessario e indispensabile vedere altrove, nella Bibbia, come gli autori biblici definivano un termine. E è vero che la Bibbia non è un dizionario, ma è possibile ricavare il senso di una parola dal contesto di una frase dove essa compaia. Anzi, a dire il vero è proprio in un discorso che comprendo il significato di una parola. Se io dico letto, posso riferirmi tanto al mobile sul quale vado a dormire, oppure a un verbo espresso al participio passato. Se dico ho letto un libro, tutti, ma proprio tutti, comprendono che il termine letto è un verbo. Così come esempio, nella lettera scritta da Paolo agli abitanti di Roma, leggiamo un passo in merito al popolo di Israele, che chiarisce se questo fosse ancora inserito nei programmi di Dio per il futuro. Così dunque, anche nel tempo presente è stato lasciato un residuo, secondo l'elezione della grazia. E se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Paolo considera il popolo di Israele ancora eletto perché è tale per grazia e non per opere. Perciò l'apostolo mette senza ombra di dubbio l'opera e la grazia in opposizione, per cui quando è per grazia non è per opere, e se è per opere non è più per grazia. Grazia e opere non possono coesistere. Difficile quindi vedere la salvezza dell'uomo come risultato della grazia di Dio e poi anche per mezzo delle opere dell'uomo. Paolo infatti ha scritto ancora: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Con questo chiarimento Paolo ha tolto ogni dubbio che l'uomo possa ottenere la salvezza per mezzo delle opere. La salvezza è per grazia, mediante la fede. Nulla si può aggiungere. Un dizionario dei concetti biblici definisce grazia un'azione che produce del bene, ed è in questo senso lato che dobbiamo considerare il termine in questione. Quando Dio rispose a Paolo, mentre era sofferente, la mia grazia ti basta, voleva proprio dire questo. Paolo aveva realizzato la giustizia di Dio mediante un solo atto di fede, e questo doveva bastargli. Se Paolo avesse solo pensato di dover compiere delle opere per ottenere la salvezza, la grazia non sarebbe stata più grazia, e il perdono dei peccati offerto da Dio in Cristo non sarebbe stato più sufficiente. Come è importante capire il senso delle parole. Avendo realizzato ora di essere giusto davanti a Dio, Paolo poteva di conseguenza gustare quegli atti favorevoli e benevoli di Dio, quali per esempio l'essere stato chiamato a predicare l'Evangelo, l'essere partecipe dello Spirito di Dio, il far parte della Chiesa e del corpo di Cristo, il poter soffrire per Cristo, l'amare coloro che lo perseguitavano, il conoscere i misteri di Dio e il poter morire per Cristo il suo Salvatore. Questa è la grazia di Dio, quella grazia che doveva essere sufficiente, nella buona e nella cattiva sorte, e bipo quella grazia che basta e deve bastare pure a me, e questa grazia è sufficiente anche per te, oppure accetti la grazia, cioè i favori immeritati di Dio, e poi vuoi supplire ad essa, per l'incredulo si tratta di dover osservare dei riti religiosi con l'intento di graziarsi, nota il verbo, il favore di Dio, mentre per certi credenti si tratta di migliorare la loro vita per sentirsi più in regola con Dio. Certo, chi ha posto fede in Cristo è chiamato ad osservare la legge di Dio, ma non come mezzo per essere più graditi, ma come atto di riconoscenza per aver ricevuto la grazia di Dio immeritatamente. Purtroppo molti credenti concepiscono il cristianesimo come qualcosa da raggiungere, da possedere, da ambire, e per questo si sforzano, mentre hanno dimenticato che non si tratta d'altro se non una posizione ottenuta, e dalla quale a volte è possibile uscire. Ma chi ha compreso la grazia di Dio, non secondo il pensiero cattolico romano, ma secondo quanto espresso nella Scrittura, ha una vita piena di riconoscenza verso Dio e fa ogni cosa come se la facesse per Cristo. Colossesi 3.17. Se le vite di coloro che si professano cristiani non cambiano e non sono cambiate, è anche perché non ci è un concetto sano e genuino del termine grazia, e per questo la grazia di Dio per loro non è sufficiente in tutte le situazioni. Non c'è e offesa più grande che insultare la grazia di Dio nei confronti di Dio perché si disprezza un suo dono immeritato volendo meritarlo, nei confronti di se stessi perché non si vive e non si può vivere al livello che Dio vuole per ciascun individuo che si arrende a Lui, cioè da appagato. Che Dio dia a tutti, a me, a te e al resto degli abitanti della terra, di comprendere e realizzare la grazia di Dio, perché senza di essa nient'altro ha valore. Maggio 2009. Ellero.